Letture di Radio 24. Che fai dopo scuola? Abbiamo l'ora di satanismo, non ti ricordi? Ah già, che sciocco! Corro a prendere il pentacolo nell'armadietto. E non scordarti l'acqua maledetta, che oggi abbiamo la prova di resistenza all'esorcismo. Certo, speriamo vada meglio dello sgozzamento dei capretti. Poi se ti va possiamo andare ad ascoltare qualche disco dei Black Sabbath al contrario. Che bella idea, con piacere! Forse i dialoghi fra gli alunni della Sacramento Elementary School di Portland, nell'Oregon, non saranno esattamente così, ma lo spunto non è immaginario. Dal 19 ottobre, fra le attività extracurricolari proposte dalla scuola elementare, ci sarà anche il programma After School Satan, organizzato dal Satanic Temple. Il curriculum dell'ora di satanismo, dicono gli organizzatori, è incentrato sulla scienza e il pensiero razionale e promuove benevolenza ed empatia per tutti. Il video promozionale, realizzato per l'occasione, mostra bambini gaudenti con ragni sulle mani, carrellate di caproni, e statue con giovanotti intenti nell'adorazione di Lucifero, mentre in sottofondo cresce un motivo gothic metal cantato in un dialetto perduto dei Carpazi. Strategia di marketing perfetta per affascinare i giovani genitori di Portland, che sono tendenzialmente millennial che mangiano tofu. Ma hanno la mente aperta, questi oregoniani, così aperta che è complicato per il distretto scolastico respingere la domanda del Satanic Temple. La scuola in questione ospita, nelle ore facoltative del pomeriggio, il Good News Club, gruppo di catechisti degli evangelici, e non si capisce perché dovrebbero rifiutare il pensiero razionale e la benevolenza dei satanisti. Il gruppo fa leva sulla libertà come spazio vuoto in cui tutto si equivale, per costringere gli amministratori ad accettare le loro richieste. Rifiutarle le trasformerebbe in censori illiberali e bigotti. Sfruttando dunque il grande baco della vera libertà, una scuola avrà la sua sacrosanta, si fa per dire, ora di introduzione alle pratiche demoniache, che poi non c'entrano con i sacrifici di vergini che abbiamo in mente. Sul sito del Satanic Temple si legge che l'associazione promuove benevolenza verso tutti, rifiuta l'autorità tirannica, esalta il senso comune e la giustizia e viene guidato dalla coscienza umana nel perseguimento dei nobili fini proposti dalla libertà individuale. Si definiscono politicamente attivi e con senso civico. Più che bestiali profanatori, sono boy scout influenzati dall'illuminismo scozzese, che hanno trovato il pertugio giusto per infilarsi nei meccanismi del sistema. In questa ribellione delle libertà contro se stessa, l'inquietante satanista di un tempo è colui che impedisce a questi nuovi satanisti in cravatta di fare la loro civilissima opera di proselitismo. E quello che avete ascoltato era l'articolo di Mattia Ferraresi, L'ora di satanismo come attività extracurricolare per capire i paradossi della vera libertà, dal Foglio del 29 settembre.